Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo chiaramente del nuovo dato sui titoli di Stato italiani, dopo oggi lo trovate in apertura sul Sole 24 Ore per quello che riguarda i CTZ, ma oggi sono andati in negativo anche i rendimenti, non solo dei CTZ, dei bot semestrali, meno 0,05%. Non è una cosa anomala in Europa, nell'area euro, già in Germania, in Belgio, in Olanda, in Finlandia e Austria ci sono rendimenti negativi addirittura sui 5 anni, cioè chi presta soldi allo Stato tedesco, olandese, finlandese, austriaco, belga accetta dopo 5 anni di avere meno soldi anche a livello nominale di quelli che ha prestato, quindi al lordo pur dell'inflazione. Che in Francia i rendimenti sono negativi fino ai 3 anni dei titoli di Stato, in Italia per la prima volta il bot a 6 mesi. Tra l'altro uno può dire, ma com'è che uno impazzisce e compra un titolo a rendimento negativo? Beh, se si attende che i rendimenti saranno ancora più bassi, che ancora più negativi nelle prossime emissioni, diventa conveniente, perché poi puoi rivendere quell'obbligazione anche a rendimento negativo ma con un valore più alto rispetto alle nuove emissioni. Se da meno 0,05 dovessimo andare, poniamo, a meno 0,2 o meno 0,3, avrebbe un senso comprare adesso per poi rivenderli perché hanno un rendimento più alto delle nuove emissioni. Ma al di là di questo, insomma, la dice, è la prima volta nella storia che l'Italia, per indebitarsi, l'Italia ha il secondo debito più alto al mondo, per trovare finanziatori del suo debito può offrire un rendimento negativo, seppur di pochissimo, ma ripeto, stiamo parlando del lordo, andrebbe considerata poi anche l'inflazione. E di questo parleremo nel giorno in cui il clima di fiducia, ce lo dice l'Istat, migliora, e c'è anche il commento del Presidente del Consiglio. La fiducia dei consumatori è tornata ai livelli massimi da 13 anni. So già che alcuni si arrabbieranno, diranno: ma dov'è questa fiducia, dov'è questo ottimismo? Si tratta di dati aggregati, ne parleremo nella seconda ora del programma, perché riguardano sia i consumatori e anche in parte le imprese. È chiaro che questa crisi, o meglio questo tentativo di ripresa, per come si sta delineando, è ancora moltissima macchia di leopardo, e quindi ci sono imprese, specificatamente quelle legate all'export, che vanno bene. L'export dovrebbe fare un nuovo record quest'anno, record storico, e poi ci sono imprese magari nello stesso distretto, magari a pochi chilometri di distanza, che sono ancora in estrema difficoltà, o perché non hanno ammodernato i processi, la rete di distribuzione, la filiera, o perché operano più sul mercato interno che sul mercato estero. E questo, ma il dato complessivo porta la fiducia dei consumatori a 116,9 punti, che è il livello più alto dal febbraio del 2002, quindi oltre 13 anni fa. La fiducia dei consumatori non ha a che vedere in senso stretto sull'andamento dell'economia. Nel 2002 l'economia, nel 2003, 2004, 2005 è andata meglio sicuramente che in questi anni, però è proprio un indicatore di fiducia, se ti senti più o meno fiducioso sulle prospettive economiche a venire. Ancora, anche sulle imprese ai massimi dal 2007, soprattutto nel settore del commercio, e questo è interessante perché è stato il settore più penalizzato da questa crisi, quello dei consumi interni, soprattutto nella seconda ondata, quella dal 2010 in poi. Nel commercio l'indice di fiducia delle imprese del commercio tocca il livello più alto dall'inizio delle serie storiche, dal 2003. Attenzione che la fiducia non si genera solo sulla base di dati economici, ma è un elemento importante da un punto di vista economico, perché è quella che poi porta a spendere di più quando hai soldi che magari tieni in banca o sotto il materasso, è quella che porta a investire se tu ritieni che le prospettive siano in miglioramento, e via così. Quindi non è dettata da elementi strettamente economici, ma ha un impatto fortemente economico. L'Istat fa notare che gli italiani tornano a sognare una nuova auto, miglioramento nelle intenzioni di acquisto dell'autovettore dei consumatori, restano stabili gli orientamenti dell'acquisto di un'abitazione, diminuiscono i progetti di manutenzione straordinaria della propria casa.

sempre per quello che riguarda l'andamento dell'economia italiana. Oggi il Centro Studi Confindustria segnala una produzione industriale a ottobre in rialzo dello 0,2% e è uno 0,6% come andamento complessivo della congiuntura nel terzo trimestre dell'anno. Ancora, per quello che riguarda la legge di stabilità, oggi è intervenuto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan alla giornata mondiale del risparmio. Vi arrivo tra un attimo, perché prima volevo dare una notizia sulla Volkswagen, in realtà, perché poi l'intervento di Padoan sulla giornata mondiale del risparmio, c'era anche il governatore Visco, ci porta al tema dell'obbligazione dei rendimenti. Volkswagen, come già ricordavano i nostri GR24, oggi ha diffuso i dati sul terzo trimestre per la prima volta da 15 anni, come era ampiamente immaginabile visti gli accantonamenti e quindi i soldi che ha dovuto mettere da parte per la vicenda Dieselgate, per lo scandalo sulle centraline truccate. Dicevo, ha chiuso in rosso, perdita di 1.670.000.000 di euro, una perdita operativa di 3.480.000.000 di euro, ricavi a 51.500.000.000 sopra le attese, ma a causa appunto del Dieselgate la società si attende un utile operativo 2015 sotto i livelli del 2014. La perdita del terzo trimestre, ripeto, è da addebitarsi principalmente ai quasi 7 miliardi, sono 6 miliardi e 700 milioni di euro che Volkswagen ha messo da parte, ha accantonato per affrontare le conseguenze, in primo luogo la class action e le sanzioni che riceverà per il Dieselgate. E ci sarebbe un accordo sui nuovi test su strada per le emissioni auto, ma al ribasso rispetto alla proposta della Commissione Europea. C'è una soglia più alta di tolleranza, di non conformità delle emissioni, un parziale slittamento dei tempi, tutti i 28 paesi a favore tranne l'Olanda, mentre si è astenuta la Repubblica Ceca. E allora, visto che adesso arriviamo alla pagina del risparmio, oggi il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, nella giornata mondiale del risparmio, 91esima giornata, ha intanto ringraziato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco per l'operato e per il fatto che il sistema bancario venga seguito con un'azione di vigilanza capillare e continua dalla Banca d'Italia. Qui le polemiche erano soprattutto sulla Popolare di Vicenza, Veneto Banca e quant'altro. E poi ha aggiunto: con la legge di stabilità proroghiamo gli sgravi, una misura che via via andrà a morire, però ne approfittino intanto le imprese. La manovra prevede uno sgravio di circa 1,7 miliardi per le imprese e permette anche per questa via di ridurre la pressione fiscale, che passa dal tendenziale del 44,2% al 42,4%. Altre misure di taglio delle imposte riguardano la riduzione dell'IRES dal 27,5% al 24% a partire dal 2017, la riduzione dell'IVA per le piccole imprese e l'anticipo del rimborso IVA per i crediti non riscossi, importanti misure per il sostegno sugli ammortamenti che in questa fase in particolare riteniamo potranno sostenere le decisioni di investimento delle imprese. È stato prolungato il bonus assunzioni per i lavoratori a tempo indeterminato nel 2016, prevedendo un'agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi. È una misura che via via andrà a morire, come si dice, ma che appunto esaurisce la sua funzione in questa fase di transizione e che io mi auguro le imprese sapranno approfittare al meglio. Ripeto, Padoan ha difeso la Banca d'Italia, l'opera sempre assolutamente corretta, ha svolto i suoi compiti con efficacia. Vabbè. E poi anche il governatore Visco ha detto: rispetto alla magistratura, il nostro operato è stato corretto, rispondiamo del nostro operato nei luoghi deputati. Questo riguarda anche la vicenda della procura di Spoleto. E poi la crescita in Italia nel 2015 può sfiorare l'1%. Le prospettive sono buone sull'occupazione. Nel frattempo, aspettando la Federal Reserve, cioè la Banca Centrale Americana, che questa sera ci farà capire se aumenterà i tassi di interesse entro il 2015 o si sposterà direttamente verso marzo del 2016. Il ricordo che i tassi americani sono ai minimi storici dal dicembre del 2008. Molti si attendono però un nulla di fatto oggi, lo dico già, cioè che Janet Yellen prenderà atto che forse ancora un po' presto c'è stato il rallentamento cinese e quant'altro, per cui aspetterà ancora un po'. La scorsa settimana Mario Draghi ha annunciato un rafforzamento del quantitative easing, dell'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, dagli attuali 80 miliardi che sta acquistando la BCE e le banche centrali nazionali stanno acquistando ogni mese. Tra l'altro, tutto questo aveva già avuto un effetto in borsa, ma insomma, tra ieri e oggi abbiamo avuto i CTZ a due anni passati in territorio negativo e oggi per la prima volta nella storia anche i bot a sei mesi, meno 0,05%. Ringrazio Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera Moria. Buonasera a tutti. E grazie anche ad Alberto Gallo, responsabile ricerca macro di Royal Bank of Scotland, in collegamento con noi da Londra. Buonasera dottor Gallo. Buonasera, grazie. Vorrei partire da lei perché poi so che anche degli impegni. Insomma, io dicevo in apertura che in Germania, Belgio, Olanda, Finlandia e Austria i rendimenti negativi li hanno già da tempo, e anche in Francia con i titoli di Stato fino a tre anni i rendimenti sono negativi. Poi verremo a chi li acquista, ma la vostra prospettiva è che questo sia comunque, non dico il fondo, ma il rendimento più basso, o che potrebbero continuare a scendere? Gallo. Potrebbero continuare, noi vediamo per esempio il rendimento del decennale BTP che adesso è a 1,4%, quindi circa l'1% sopra la Germania, potrebbe diciamo abbassarsi ancora di qualche decina di basis point. Detto di questo, punti, sì. Sì, decina di, quindi dall'1,4 all'1,3-1,2, insomma. Quindi siamo quasi al fondo, però è importante ricordare che il quantitative easing, la politica di acquisto di asset della BCE, continuerà, probabilmente ci sarà un altro annuncio a dicembre e quindi questo fondo durerà per molto, probabilmente la BCE estenderà gli acquisti fino al 2017, estendendo il termine che adesso hanno, che è di settembre 2016, e alla fine questi rendimenti negativi sono un'opportunità per il governo, non solo italiano, in generale di fare un europeo, di fare qualche stimolo fiscale, altrimenti tutti questi soldi della BCE vanno a finire solo nei mercati finanziari ma non nell'economia reale. Sì, sono un'opportunità per i governi come quello italiano per collocare debito adesso e non aspettare due anni e via, però ci sono anche le scadenze lì. Lei diceva, attenzione però, date stimoli fiscali, sennò questi soldi restano solo in pancia alle banche. Da questo punto di vista però, Gallo, c'è chi dice se le prospettive sono di cali ulteriori diventa conveniente anche comprarle adesso, perché paradossalmente rispetto a prossime emissioni hai rendimenti più alti, li puoi rivendere sul secondario. Lei consiglierebbe l'investimento ancora adesso? Sì, per un portafoglio obbligazionario dal punto di vista dell'investitore, l'Italia o anche la Spagna, che in realtà si è ha aumentato i rendimenti per il discorso delle elezioni spagnole, della Catalogna, eccetera, sono sia l'Italia che la Spagna, forse un pochino di più la Spagna adesso, sono ancora opportunità interessanti. Certo, non si tratta dei rendimenti del 7% che avevamo anni fa, però nel diciamo in un contesto in cui le banche centrali continueranno a comprare obbligazioni e in generale anche asset finanziari, rimane uno dei pochi dei pochi rendimenti interessanti, e sappiamo che la BCE continuerà a sostenere la domanda di bond, cioè di obbligazioni sia italiane che spagnole, quindi noi siamo ancora positivi. Voi siete ancora positivi su questo. Moria Longo, vorrei sentire anche la tua opinione, perché molti ci chiedono, ma chi è, molti ascoltatori giustamente pongono la domanda, ma chi è il pazzo che compra un titolo di Stato con un rendimento negativo lordo? Cioè, questo vuol dire che poi ci paghi le tasse, ma soprattutto che non tiene conto dell'inflazione. È vero che l'inflazione quasi non c'è, però immaginando che tu compri un titolo a scadenza, devi anche considerare che un po' di costo della vita sui beni e maggiore consumo, per esempio, ancora ce l'abbiamo. Prego. Sì, è un paradosso assolutamente. Il punto è questo: in Europa e nel mondo in realtà c'è tantissima liquidità, la BCE continua a pompare liquidità sui mercati, gli investitori, ma soprattutto le banche, hanno un sacco di soldi, i fondi monetari, hanno un sacco di soldi, non sanno dove metterli, perché non è solo il bot che rende meno zero, in realtà buona parte dei titoli di Stato europei sono sotto zero, a breve scadenza e hanno rendimenti bassissimi. L'alternativa per una banca è di mettere i soldi nei depositi della Banca Centrale Europea, ma anche lì i tassi di interesse sono negativi. Attualmente meno 0,20. Draghi li ha resi sempre meno convenienti, che non vuole che le banche dell'area euro utilizzino la BCE come, diciamo, parcheggio. Come cavò, diciamo. Esattamente. Anzi, Draghi ha annunciato l'altro giorno, e probabilmente a dicembre, abbasserà ulteriormente il tasso sui depositi, più basso di meno 0,20%. Questo per disincentivare le banche a mettere i soldi nel conto corrente, tra virgolette, della Banca Centrale Europea. Quindi la banca, il fondo, l'investitore che ha soldi e li vuole parcheggiare, dove li può mettere? Allora, rispetto al meno 0,20 attuale di un deposito BCE, il meno 0,05% dell'Italia, del bot a 6 mesi, è appetibile, quindi è più alto. Tra l'altro, il bot a 6 mesi rende negativo, ma bisogna tener conto che buona parte dei titoli di Stato a 6 mesi europei hanno un rendimento ancora più negativo. Quindi è meno negativo degli altri. Quindi in un contesto di tassi a zero, in un contesto di un mondo completamente capovolto, gli investitori, le banche, soprattutto comunque gli istituzionali, fondi monetari, che hanno soldi da parcheggiare per impiegarli magari tra un po' di tempo, non sapendo dove metterli, li mettono, comprano bot a 6 mesi, quindi pagano lo Stato per avere il privilegio. Un parcheggio a pagamento è diventato il bot, non più. No, ma se pensiamo che nel 2009-2010 partì, e poi 2011, come dimenticarsi, quell'estate, partì l'attacco speculativo alla tenuta del debito italiano, perché la Grecia era il pesce piccolo, poi c'era Portogallo, Spagna, ce lo ricordiamo, ci fu anche la caduta del governo Berlusconi, uno spread a 560, e sembrava la curva dei rendimenti italiani che si era invertita, quindi rendeva praticamente di più il BTP a 3 anni o a 5 anni di quello a 10, perché nessuno si fidava di prestare soldi allo Stato italiano a 10 anni. Ma tutta una situazione da pre-crack, e adesso siamo al fatto che pur di poterti prestare soldi, ci rimetto. Si è capovolto il mondo, Gallo. La cosa che più... Prego. È diventato un bene rifugio. Sì, la cosa che mi spaventa un po' però è che se continua così, tra la Banca Centrale Europea, le banche nazionali, la Banca Centrale Nazionale e le banche nazionali se la stanno un po' cantando e suonando da sola. Cioè, se tutto deve essere che io continuo a comprare titoli di Stato come BCE e quindi abbasso ulteriormente i rendimenti, crea una marea di liquidità perché nel farlo stampo moneta, diciamo in maniera un po' semplice. E questa liquidità le banche la usano per comprarsi titoli di Stato a loro volta, perché non hanno occasioni per prestare. Diciamo, è un circolo sostanzialmente chiuso, e non è quello l'obiettivo del cui, Gallo. Esatto, e questo è un po' lo scenario che noi abbiamo descritto come QE all'infinito, che è uno scenario un po' un circolo vizioso che si può generare se il QE rimane uno sforzo a sé stante. Certo. Ovvero se quello che faccio è soltanto stampare moneta, comprare obbligazioni, ma i governi non fanno degli stimoli, non fanno delle riforme, cosa che un pochino sta succedendo, ma molto lentamente. Allora, se questo non succede e io compro solo asset finanziari, allora il QE diventa uno stimolo distaccato dall'economia reale. E allo stesso tempo le banche centrali si collegano sempre di più ai mercati finanziari, non soltanto alle obbligazioni di Stato, ai titoli di Stato, ma anche ad altre cose. Potrebbero comprare cartolarizzazioni, potrebbero comprare prestiti bancari, potrebbero comprare anche azioni, come è successo in Giappone. A questo punto la reputazione, la credibilità della banca centrale rimane sempre più collegata alla performance del mercato finanziario, e le banche centrali hanno anche avuto delle perdite. Per esempio la Banca Centrale Svizzera, che è la più grande, che il vicepresidente della BCE ha citato esplicitamente nell'ultimo discorso, ha un bilancio che è il 90% del PIL svizzero. Quindi se quello è il punto di arrivo, vuol dire che le banche centrali potranno comprare molto di più, ma allo stesso tempo questo poi non è un equilibrio. No, quello che voglio dire in maniera molto chiara, perché vedo anche le preoccupazioni di alcuni ascoltatori, è questo. Cioè, se noi stiamo inondando l'area euro di liquidità, ma gli Stati Uniti l'hanno fatto subito dopo lo scoppio della crisi, dal dicembre 2008 in poi, Solo che questa liquidità è servita negli Stati Uniti a far ripartire l'economia in parte, perché ha dato prestiti, hanno salvato i gruppi assicurativi, però è ripartita l'economia. Se da noi tutto questo si riduce semplicemente a banche che hanno, hanno liquidità per comprare titoli di Stato ma non, non investono questa liquidità in prestiti, scusi Gallo, ma qui poi lo chiederò anche a More Longo, rischiamo la bolla, cioè un eccesso di liquidità per cui alcuni titoli vengono anche pompati eccessivamente, alcune operazioni finanziarie sono, sono troppo appunto a bolla, mentre nell'economia reale, cioè nei prestiti alle imprese e alle famiglie non per i mutui, non si vede nulla. Rischiamo delle distorsioni, io direi che per ora ancora la bolla forse non ce l'abbiamo, però sicuramente questo stimolo non è arrivato nell'economia reale, per esempio i prestiti bancari continuano a scendere. Certo, ma anche l'utilizzo del TLTRO, cioè TLTRO, TLTRO. Prendono a prestito dalla BCE ma non ma pochissimo prestano alle imprese, ma ci sono tre differenze con l'America. Tre o quattro. Noi abbiamo fatto il QE più in ritardo, l'abbiamo fatto con un deficit governativo del 3%, invece il tesoro americano spendeva al 12%, quindi c'era stimolo fiscale. Poi in America i mercati finanziari sono molto più flessibili, ci sono obbligazioni e ci sono azioni, qui in Europa 80% dei fondi viene dalle banche, quindi non abbiamo un canale di finanziamento diversificato. E infine le banche non sono state ristrutturate, nonostante quello che sentiamo dalle banche centrali nazionali, le banche sono ancora molto frammentate. In Italia abbiamo 700 banche, abbiamo più sportelli bancari per persona di farmacie o ristoranti. E c'è ancora un trillion, quindi mille miliardi di euro di loan, quindi di non performing loan, quindi prestiti bancari in sofferenza, che sono il 10% del PIL europeo. 35% di questo, quindi 350 billion di euro, sono nelle banche miliardi italiane. Quindi tutto questo impedisce al quantitative easing della BCE di andare impattare l'economia. È come se io pompassi del liquido, ma ci fosse un imbuto per cui si rischia di creare veramente una bolla nell'ingresso, ma senza che poi ne abbia un beneficio il resto dell'organismo. Ringrazio Alberto Gallo, poi vorrei sentire dopo il metro pubblicità More Longo anche per le scelte. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Non ho dato la borsa, avete ragione. Vi do però la chiusura: più 1,41% Milano, più 1,30% Francoforte, più 0,90% Parigi, più 1,20% Londra, con il caso Saipem più 11% e il fronte opposto Fiat, che adesso perde molto meno, perde il 2,20%. Meteo. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio 24, da Nico Schiodetto di trebimeteo.com. Nelle prossime ore tempo ancora molto instabile sulle regioni del centro-nord, alle prese con una nuova perturbazione. Tra sera e notte sono attese di fatti nuove piogge temporali, anche di forte intensità tra Liguria, Lombardia, Toscana e Lazio. Tempo in peggioramento in nottata anche su parte del sud Italia, con qualche piovasco in arrivo sulla Campania. Nella giornata di domani ritroveremo ancora condizioni di instabilità al nord-est e sulle regioni del centro-sud, con occasione per qualche pioggia o rovescio, in particolar modo tra Sicilia orientale, Calabria, Puglia e Basilicata. Dalla serata migliora su buona parte del centro-nord, con schiarite via via anche ampie. Concludiamo con le temperature in lieve calo al sud, valori pomeridiani mediamente compresi tra 15 e 20 gradi. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti in tempo reale scaricando l'app gratuita di trebimeteo.com. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. A 7:43 minuti, dunque mi scrivono alcuni ascoltatori, ma insomma non abbiamo capito. Vediamo se riesco a spiegarle in maniera ancora più facile. Tra ieri e oggi è successa una cosa storica: i rendimenti dei titoli di Stato italiani, non tutti, i CTZ e i BOT a 6 mesi, sono andati in negativo. Quindi per la prima volta, nonostante l'Italia sia il paese con il secondo debito al mondo e non un paese tra i più affidabili, gli investitori esteri e nazionali preferiscono perderci, per cui quando, se lo porti a scadenza, porti a casa lo meno 0,05% del capitale nominale, quindi va sommato la tassazione e anche la, l'inflazione, preferiscono perdere pur di prestare soldi allo Stato italiano. Già avviene così in altri paesi. Come mai? Perché il prezzo, i rendimenti, scusatemi, di queste obbligazioni sono crollati da quando la Banca Centrale Europea sta continuando a ha iniziato e continuerà a comprare titoli di Stato attraverso anche le banche centrali. E Mario Draghi la settimana scorsa ha annunciato che lo farà oltre il settembre 2016, aumentando anche la dose. Questo chiaramente, quando ci sono tanti acquisti, il rendimento delle obbligazioni cala. Ora la domanda però che si poneva con Alberto Gallo, che gira anche a Moria Longo: tutto questo è positivo se le banche a questo punto, avendo più liquidità e questa iniezione di liquidità, viene poi girata l'economia reale? Se resta solo, diciamo, sull'investimento obbligazionario, sul parcheggio di soldi o sull'azionario, è un gioco in cui uno se la canta e se la suona, ma non abbiamo l'effetto, diciamo, di liquidità per far ripartire l'economia. Prima domanda, Moria. In effetti noi non vediamo vediamo banche che comprano anche rendimenti negativi, titoli di Stato, ma non vediamo per esempio ripartire il mattone. Uno potrebbe dire: bene, il denaro costa niente, anzi ci perdi se compri un bot, metto i miei soldi con i bot negativi, e adesso immaginando che questa tendenza andrà avanti, cerco di metterli in altri settori. Eppure questo non si vede. Allora, il mercato immobiliare è un mercato che ha un ciclo molto più lento, non si riprende velocissimamente, come non cade nei momenti negativi così velocemente. Comprare una casa non è come comprarsi una maglietta. Comprare una casa significa farlo o per investimento o farlo per un progetto di vita, quindi uno deve avere innanzitutto un lavoro, deve avere voglia di mettersi una famiglia, è un progetto serio che uno non fa dall'oggi al domani. Anche se uno lo fa come investimento, deve avere un certo capitale per farlo. E soprattutto con la grande incertezza che c'è, per esempio, sul fronte fiscale, ogni anno le tasse sulla casa cambiano nome, cambiano importo e non si sa assolutamente nulla dell'anno prossimo. La grande incertezza che c'è in generale, è ovvio che chi ha da parte dei soldi magari aspetta, e chi non ce li ha ed è disoccupato, non dimentichiamo che in Italia abbiamo una disoccupazione altissima, soprattutto tra i giovani, che sono quelli che dovrebbero comprare casa, mettere su famiglia, è abbastanza ovvio che il mercato immobiliare fatica a riprendersi. Allora, vediamo se la spiego così. Perché allora non vengono prestati agli imprenditori? Giustamente mi fanno notare, ma insomma, con questi rendimenti e con un tasso negativo nel deposito overnight della BCE, cioè nei depositi lasciati, se una banca volesse lasciare i soldi della BCE la sera, riprende la mattina, i rendimenti Mario Draghi gli sta portando sempre più negativi. Uno dice: vabbè, dovrei essere invogliato a prestare agli imprenditori a dei rendimenti sicuramente più interessanti. Ora, noi sappiamo, perché ce lo scrivono gli imprenditori, che ancora le banche offrono prestiti al 6%, voglio dire, con rendimenti vicini allo zero non si può sentire. Ma perché questa cosa non si scarica dicendo: guarda, offro un prestito al 3%, visto che comunque è molto più alto dei rendimenti negativi che ho da altre parti? Allora, esiste un proverbio nel mondo anglosassone che dice: il banchiere è colui che ti presta l'ombrello quando c'è il sole e te lo chiede indietro quando inizia a piovere. Un po' il motivo è questo. Le banche non è che non prestano soldi alle imprese, le banche i soldi alle imprese le imprestano, ma soltanto alle imprese che non ne hanno bisogno, che hanno una ottima situazione finanziaria, che hanno un altissimo rating, quindi un'altissima affidabilità. Queste imprese dovrebbero iniziare a investire con i soldi che le banche gli prestano, ma siccome gli investimenti non partono, per lo stesso motivo che dicevamo prima, c'è incertezza, non si sa come va il futuro, c'è ancora troppa incertezza, la ripresa è proprio agli albori, quindi gli investimenti non ci sono, quindi le imprese che potrebbero permettersi di andare in banca a prendere soldi a bassi tassi interesse, cioè quelle con alta affidabilità creditizia, con ottimi bilanci, in realtà non chiedono soldi in prestito. Il problema sono tutte le altre imprese, quelle che oggi chiedono in prestito soldi alle banche tendenzialmente sono imprese che hanno problemi, che hanno magari hanno un'ottima azienda, un ottimo business, ma hanno una difficoltà finanziaria, una situazione di stress finanziario. A queste imprese le banche i soldi non li vogliono prestare perché hanno un altissimo rischio, cioè rischiano che poi prestano i soldi e non li vedono tornare indietro. Ricordiamo che le banche italiane hanno già 200 miliardi di sofferenza, certo. E hanno un problema serio da questo punto di vista. Quindi finché non riparte un po' la fiducia, finché le imprese non iniziano un po' a investire quelle che possono permetterselo. E finché le banche non prendono coraggio e capiscono che l'economia migliora, e quindi anche se aiuti l'impresa magari strutturalmente, che ha un'industria buona ma una situazione di stress finanziario, finché non accade questo l'economia non riparte. Oddio, c'è poi tutto il tema di Basilea, dei rating, del fatto che le regole europee rendano più conveniente per una banca investire in un derivato o in un titolo di Stato che non in un'impresa, perché devi accantonare più soldi. Però attenzione, questa non può essere né una scusa per gli imprenditori per non iniziare anche delle volte a presentare bilanci, progetti e piani industriali fatti meglio, lo dico con massimo rispetto, però è la denuncia che spesso arriva dal mondo delle banche. E non per chiedere solo un finanziamento del circolante, perché è chiaro che se una banca deve darti solo i soldi per pagare fornitori e stipendi, vede poca prospettiva. Dall'altro non può essere la scusa per le banche italiane, perché in altri paesi dell'area euro invece le banche prestano e prestano anche senza chiedere. Sì, posso dire una cosa, c'è anche un problema, lo accennavi tu brevemente, di capitale. Le banche, sebbene abbiamo fatto pulizia di bilanci e aumenti di capitale, hanno ancora una scarsezza di capitale. Le regole di Basilea dicono che una banca può prestare soldi, quindi fare un'attività rischiosa, se ha da parte del capitale sufficiente e libero per poter prestare soldi. Per ogni 100 euro che una banca presta deve avere 8 euro di capitale libero. Allora, se ha una banca enormi crediti in sofferenza che non ha ancora ampiamente svalutato, se ha già una serie di attività non ha sufficiente capitale per prestare soldi, quindi quel poco capitale che ha per prestare soldi preferisce fare alle imprese a prova di bomba, diciamo, quelle proprio che sicurissime. Sì, e anche un po' più, però fammi dire Mario, un po' più di coraggio, perché vediamo questo che all'estero non si chiede sempre la partecipazione alla quota a parte, si può anche dare, le start-up tipicamente cosa chiedi? Garanzie a uno che fa una start-up, se fa la start-up garanzie te ne può dar poche. Comunque grazie, perché questo era importante, per quanto il tema possa sembrare molto finanziario, quando poi i bot, i BTP non ancora, ma i bot e CDZ vanno in rendimento negativo, le stesse famiglie italiane, oltre che gli investitori, sono spinti a cercare altre forme di rendimento, perché insomma a rassegnarsi a rendimenti negativi insomma è un po' poco. Grazie Mario Longo, traffico e poi la borsa. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Focus Economia. Sì, un ascoltatore dice, beh, qua rischiamo la trappola della liquidità, è esattamente questo, cioè una battuta che ogni tanto faccio, che tu dia tanta acqua a un cavallo che però non beve, e quindi poi questa è la trappola della liquidità. Non ci siamo ancora, ma immagino che sia l'incubo più presente nei sogni di Mario Draghi, cioè che tutta questa operazione di inondare di liquidità il mercato e stampare moneta, a parte portare i rendimenti negativi di titoli di Stato, non faccia ripartire l'economia. Ecco perché Gallo diceva i governi, e aggiungiamo noi anche Bruxelles, dovrebbero lanciare un piano di investimenti, un piano fiscale di agevolazione di investimenti molto forti. Vi arriveremo, vorrei commentare il resto della borsa partendo da Saipem, oggi vero caso di borsa, più 10,90%. E qui ci sono varie voci su l'ipotesi di un ingresso della CDP. Andrea Fontana, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Partiamo da Saipem, poi dopo il GR24 gli altri titoli. Saipem. Sì, beh, le voci dei giorni scorsi sono state sostanzialmente confermate dal comunicato del fondo strategico e di Saipem, che prevede appunto un ingresso del fondo strategico, braccio operativo della Cassa Depositi e Prestiti nel capitale di Saipem, e una riduzione della quota da parte di Eni e soprattutto un aumento di capitale importante, che era però nelle attese 3,5 miliardi, anche se qui la garanzia di una copertura di larga parte dell'aumento di capitale, circa oltre il 40% da parte dei primi due azionisti, appunto Eni e Fondo Strategico, ha in una certa parte rassicurato il mercato ed è alla base del più 11% di Saipem di oggi, anche perché gli obiettivi del piano strategico sono un po' più aggressivi, come dicono gli operatori, rispetto a quelli attesi, e oggi una grossa mano l'ha data al rimbalzo del petrolio, certo, che ha guadagnato il 5% a New York, sta guadagnando adesso quasi ci arriviamo. Il 7%. C'è qualcosa che mi sfugge, perché il Fondo Strategico, che è il braccio operativo del CDP, se non ricordo male, la Cassa Depositi e Prestiti, gestendo i risparmi degli italiani, i risparmi postali, doveva investire solo in società inutile, in utile, cioè in attivo. Però ne parliamo dopo GR24, commentiamo anche il resto della borsa che ha chiuso comunque positiva più 1,41%, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, poi parleremo anche della fiducia di imprese e consumatori a record. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa e per poi passare ai dati sulla fiducia di consumatori e imprese. Al di là di Saipem più 10,90%, c'è Fiat oggi che ha sofferto, sospesa, poi riammessa, perdeva il 5%, meno 2,20%. Andrea Fontana. Sì, i risultati di Fiat trimestrali hanno un po' sorpreso in negativo, soprattutto non tanto per, diciamo, i dati complessivi che sono stati anche superiori a quelle che erano le previsioni, quanto per i consistenti accantonamenti, oltre 600 milioni dopo le tasse, per gli eventuali costi legati ai richiami di auto negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. Un dato che è stato spiegato da Marchionne con i maggiori rischi legati dopo il caso Dieselgate e Volkswagen ai maggiori controlli, quindi alla necessità di avere una maggiore cautela sui conti da questo punto di vista e quindi accantonare più risorse per costi futuri che hanno sorpreso in negativo. Il titolo è arrivato a perdere anche il 6% per poi chiudere a meno 2,2%. Sì, anche perché l'utile netto rettificato è salito a 303 milioni di euro nel terzo trimestre contro i 230 di un anno prima, del terzo trimestre 2014, quindi è il tema accantonamenti di Volkswagen. Abbiamo già detto oggi dell'annuncio di un trimestrale per la prima volta in perdita dovuto appunto agli accantonamenti. Rapidissimi ancora altri titoli. Enel Green Power, confermato il progetto di Enel di far rientrare l'attività nel suo gruppo, però oggi mi sembra più al palo il titolo, mentre Enel guadagna l'1,90%, bene anche Eni più 2,15 sul prezzo del petrolio che tu citavi, Enel Green Power invece più 0,30%. Due titoli per concludere, Mediaset ed RCS. Il titolo oggi Poste Italiane, visto che ce lo chiedete, è rimasto intorno al prezzo ai 6,7 euro, molto ridotti oggi i volumi degli scambi. Comunque RCS e Mediaset. Sì, nel settore editoriale complessivamente una giornata positiva. Mediaset, attendendo i conti della controllata spagnola che sono arrivati dopo la chiusura dei mercati e che hanno evidenziato non solo una crescita dei ricavi del 2,5%, ma soprattutto un utile più che raddoppiato, più che moltiplicato rispetto allo scorso anno in Spagna, che è quella che si sta rivelando la controllata di Mediaset con maggiore capacità di incorporare la ripresa del mercato pubblicitario. RCS invece ha accolto positivamente la nomina del nuovo amministratore delegato Laura Cioli, è salita anche di oltre l'1%, ha chiuso a più 0,2%, ma soprattutto gli operatori hanno apprezzato la rapidità con cui si è arrivata alla nomina del nuovo amministratore delegato al posto Pietro Scotti Iovane, e quindi guardano già alle trattative con le banche per la ristrutturazione del debito e per l'avanzamento del percorso di ristrutturazione del gruppo editoriale. Le poste, dicevo, invariate 000 a 6,70 €. Invito a risentire anche l'intervista oggi da Giovanni Minoli a Mix 24, qui a Radio 24, a Francesco Caio, il quale ha detto, tra le altre cose, che gli investimenti e le poste li faranno anche senza i soldi della privatizzazione, che vanno, come sappiamo, alla riduzione del debito. E poi, in merito a un suo possibile addio, ha detto: abbiamo un bel progetto da realizzare in 5 anni e si resta qui. Molti di voi mi stanno scrivendo invece in tema di rendimenti negativi di titoli di Stato e del fatto che le banche stiano comprando titoli di Stato e non prestando soldi all'economia, cioè il rischio della trappola della liquidità che abbiamo spiegato nella prima ora, e quindi del rendere inefficace l'operazione di acquisto di titoli di Stato da parte di Mario Draghi, della BCE, delle banche centrali nazionali. Dicono: finché non si farà la bad bank, la banca dove far confluire tutti questi prestiti non più esigibili, le sofferenze bancarie, non riusciremo a liberare risorse per il credito. Su questo è intervenuto oggi il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e quindi nel ringraziare Andrea Fontana sentiamo Ignazio Visco, appunto intervenuto alla 91esima giornata mondiale del risparmio. La partecipazione pubblica nel capitale di tale società sarebbe limitata o nulla. Potrebbe essere presente una garanzia statale sulle passività senior da essa emesse per finanziare l'acquisto degli attivi. Nel corso delle prossime settimane la fattibilità del progetto verrà definitivamente accertata. Indipendentemente dall'esito della verifica, le banche gravate da ingenti esposizioni deteriorate dovranno comunque individuare, d'intesa con le autorità di vigilanza, le modalità più adeguate per gestire nel modo più efficiente tali attivi, al fine di pervenire a un loro graduale ridimensionamento. E visto che oggi intervenivano, oltre al governatore della Banca d'Italia, anche il ministro dell'economia Padoan, già abbiamo ricordato l'asse pieno, il sostegno pieno del governo al governatore. Padoan ha detto: non vi sono indizi gravi sulle colpe del governatore, la revoca del governatore è possibile solo in caso si sia reso colpevole di grandi mancanze, non c'è alcun indizio in tal senso. La Banca d'Italia ha avuto un operato sempre assolutamente corretto, ha svolto i suoi compiti con efficacia. E da me e dal governo arriva un grazie alla Banca d'Italia, ha continuato il ministro dell'economia Padoan. E poi lo stesso Visco ha detto: risponderemo delle varie contestazioni nelle sedi appropriate, abbiamo contrastato la cattiva gestione delle banche. E poi appunto il nostro operato è corretto, pur avendo un doveroso rispetto per la magistratura, risponderemo del nostro operato nei luoghi deputati. Ma visto che oggi commentiamo l'aumento, o meglio il livello record nella fiducia di imprese e consumatori, ai massimi da 13 anni la fiducia dei consumatori, ai massimi dal 2007 quella delle imprese, con un record per le imprese che operano nel commercio, ascoltiamo anche cosa ha dichiarato il presidente dell'ABI Patuelli per quello che riguarda i prestiti alle imprese. E qui i dati confliggono sempre, cioè, ogni volta lo dico con massimo rispetto che parla il presidente dell'ABI, descrive una situazione che noi non vediamo e che non vedono neanche i nostri ascoltatori. Più 92% i prestiti ai nuovi mutui casa alle famiglie, e poi più 16% i prestiti alle imprese. Le banche in Italia sono fra i protagonisti della ripresa. I dati finora inediti relativi ai primi 9 mesi del 2015 rispetto al corrispondente periodo di un anno fa vedono crescite delle nuove erogazioni di mutui alle famiglie del 92%. Con il 30% di surroghe e del 16% per i nuovi prestiti alle imprese. I tassi si mantengono ai minimi della storia d'Italia, nonostante che lo spread, seppur ridotto, influisca anche sulla raccolta bancaria. La forbice fra i tassi sui nuovi prestiti e sui mutui, e i costi della raccolta in Italia è più ridotta di quella perfino della Germania. Io insomma, mi sembra un po' come quando parlavamo con il compianto De Vita del prezzo del petrolio. Cioè, insomma, l'ABI nega che vi sia un problema nei prestiti alle imprese, perché più 16%. Noi quando osserviamo i dati della Banca d'Italia notiamo che è rallentata la caduta dei prestiti, ma non è che sia aumentata. Insomma, giro la domanda al responsabile del comitato tecnico per il credito e la finanza di Confindustria, nonché ex presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia. Buonasera. Buonasera a lei. Poi arriviamo alla fiducia delle imprese, ma insomma, la sensazione che lei ha, avendo la delega appunto per il credito e la finanza, è che siano ripartiti in questo modo i prestiti o che sia rallentato e terminato il calo dei prestiti alle imprese? Due aspetti. Uno è quello legato a una questione molto chiara, cioè che le medie oramai non sono più significative. Che significa questo? Che quello che dice Patuelli è vero, ma è vero per quelle aziende che hanno reagito e hanno i fondamentali a posto, cioè si è allargata la forbice, in poche parole, cioè tra le aziende che hanno i fondamentali a posto e che sono nei settori innovativi e non, abbiamo un costo del denaro molto basso. Tra le aziende invece che sono nella zona grigia e sono ancora in una fase, diciamo, di criticità, il costo del denaro è ancora alto. La media chiaramente ci dice che il costo del denaro si sta abbassando e ci dice anche che le aziende di prima fascia, quelle che hanno reagito, richiedono, diciamo, più prestiti e quindi si sta riattivando, diciamo, una politica di investimento per queste imprese. Adesso dobbiamo accelerare su queste e occuparci anche di quell'area cosiddetta grigia, perché occorrerebbe portare avanti in positivo quelle aziende e evitare che chiaramente cadano in una criticità senza precedenti. Quindi il dato è vero, la media va analizzata in termini analitici e questo chiaramente comporta attività di attenzione che dobbiamo fare insieme al sistema bancario. Ecco, dopo il traffico arriviamo invece ai dati di oggi, perché anche qui vale un po' il ragionamento che lei faceva. Mai come adesso le medie che noi continuiamo a utilizzare, perché sono l'unico riferimento statistico che abbiamo nel male come nel passato e nel bene quando sono in miglioramento, però mai come adesso con una ripresa macchia di leopardo diventano un po' la media del poli di Trilussa, no? Lo ridico a tutti, due uomini. Un uomo mangia un po' la testa, in realtà uno ne mangia due, l'altro è a digiuno. E quindi questo, capisco anche il nervosismo di molti ascoltatori che mi scrivono: ma qua non vediamo niente nel tessile, in alcune parti del paese, nel mondo del commercio, in altre. Dov'è questo inizio, seppur timido, di ripresa? Dopo il traffico. Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento Focus Economia. Allora, il Centro Studi Confindustria oggi stima la produzione industriale a ottobre in crescita dello 0,2% e più 0,6% il dato del terzo trimestre congiunturale, ma soprattutto la fiducia, quella che ha fatto esultare il Premier Matteo Renzi dall'Avana, che siamo tornati ai livelli pre-crisi come fiducia. La fiducia dei consumatori è tornata ai massimi da 13 anni, dal febbraio del 2002 che non toccava i 116,9 punti. Ma anche la fiducia delle imprese ai massimi dal 2007, con una cosa importante, cioè il record sia nel settore del commercio, uno di quelli più massacrati proprio per il crollo dei consumi interni dalla crisi. E nel commercio l'indice va a livello più alto dalle serie storiche, gennaio del 2003, e anche lì segnala l'Istat che torna una voglia di comprare beni durevoli. Uno su quattro degli intervistati è pronto a spendere molto di più, il mattone invece risulta ancora fermo, e invece migliorano le intenzioni di acquisto sui beni durevoli, automobili, elettrodomestici e quant'altro. Allora, Boccia, qui secondo me rischiamo un periodo abbastanza paludoso, in questo senso che da un lato i dati aggregati, l'Istat e il governo, come farebbero, cerchiamo di essere un po' uomini di mondo, tutti i governi pompano sul dato positivo, dall'altro con le botte che abbiamo preso, un meno 20% ancora di produzione industriale rispetto al 2007, 13 trimestri di PIL negativo, è chiaro che con un più 0,6, più 0,8, più 0,9 hai voglia a vederla nel paese complessivamente la ripresa. E quindi diventa molto delicato raccontare che c'è questa cosa in corso, ma che non tutti la riescono, anzi forse la maggior parte non la vede ancora. È così, due aspetti, uno psicologico e uno economico. È chiaro che bisogna dare atto che siamo usciti da una dimensione quantomeno di ansietà, che era un male dell'economia, perché i dati ci dicono che la fiducia dei consumatori, diciamo, sale, e questo è un fatto positivo. Dall'altra parte, dal punto di vista macroeconomico, dobbiamo da un lato essere contenti che c'è un'inversione di rotta, ma di qui a recuperare quanto abbiamo perso è l'inizio di un percorso, non è la fine. Quindi occorre, come dire, una lucidità di pensiero nel capire dove siamo. Detto questo, quel dato ci dice che le aziende che hanno usato al meglio anche elementi positivi di politica economica di questo governo, che erano orientate però a mercati esteri e quindi orientate a una politica dell'offerta verso il mondo, sono quelle che in realtà stanno tirando e quindi comportano il fatto che quella media va in positivo. Quelle che invece sono, come dire, arrabbiate, non vedono gli effetti positivi di quanto lei dichiarava, sono quelle orientate al mercato solo domestico, e cioè italiano. Che significa che da un lato queste imprese devono reagire, dall'altro le banche devono guardare più nel merito di queste imprese, anche per quegli indici che abbiamo definito qualitativi cosiddetti, per capire se sono imprese che hanno crisi congiunturali e quindi vanno aiutate, o crisi strutturali. E quella fascia è una fascia che possiamo definire la cosiddetta area grigia. Quindi le medie, diciamo, non assumono significatività, dobbiamo andare più nel profondo delle questioni, ma questo dato ci dice che però quando attiviamo una politica dell'offerta facciamo un effetto traino per il paese, perché se poi queste aziende iniziano a recuperare in termini di investimento e di produzione, è evidente che comportano anche un effetto positivo sul mercato domestico. Però l'effetto, come dire, è indiretto, non è diretto, quindi è più lento rispetto a quello che vediamo. Vorrei ricollegarmi a quanto diciamo nella prima parte con anche il responsabile di Royal Bank of Scotland da Londra, e cioè se è il momento in cui i rendimenti sono negativi dei CTZ italiani, dei bot a sei mesi, ma le banche non stanno utilizzando questa montare di liquidità e la rimettono in titoli di Stato in altre operazioni, non sarebbe questo il momento di battere proprio sui vantaggi fiscali, sulle agevolazioni fiscali per le imprese che investono? Cioè tu hai i tassi a zero, i rendimenti dei bot negativi, quindi nessuno può avere tutto questo stimolo per comprare titoli di Stato, lo fai perché non vedi ancora, non hai ancora le garanzie. Un'iniziativa governativa forte su questo per battere il ferro finché è caldo, cioè è una condizione abbastanza irripetibile, Bocce. Sì, è particolarmente interessante, perché noi dobbiamo passare dalla dimensione di inversione di rotta, che è evidente, ne dobbiamo dare atto, a quella dell'accelerazione, della nuova direzione che il Paese deve prendere in termini di crescita. E questa accelerazione la fai solo riattivando investimenti privati e pubblici, e quindi intervenendo sui fattori cosiddetti di competitività, e la politica fiscale diventa una di queste, diciamo, politiche che si possono realizzare per creare un acceleratore. Vorrei ricordare, tra le altre cose, che noi abbiamo una grande questione paese, che sono i fondi strutturali di tutte le regioni nord, centro e sud. Una parte di questo, a nostro avviso, come Convius, può essere usata come beneficio fiscale per investimenti nel paese. Chiunque venga a investire nel paese potrebbe avere un bonus, tra virgolette, di credito fiscale, aggiungendo, come dire, una politica fiscale premiante per gli investitori, e quindi facendo da acceleratore proprio in merito a quello che lei dice. Ora il punto non è aver invertito la rotta, perché è evidente, quindi è una grande constatazione di positività, uscire dall'ansietà, e lo abbiamo fatto, i dati ce lo dicono, il problema adesso è in quanto tempo diamo un'accelerata per costruire, diciamo, e recuperare quello che abbiamo perso, perché ricordiamo che noi abbiamo perso oltre 10 punti di PIL, quindi recuperarne 0,6 è positivo rispetto ai dati passati. Sì, ma non possiamo metterci 10 anni, 12 anni a recuperare i livelli pre-crisi. E quindi dobbiamo, come dire, comprimere il tempo. Accelerare in questa direzione, ci sono una serie di elementi, il che significa aprire un'agenda per la competitività all'interno del paese, nell'interesse dell'impresa e nell'interesse del paese. Sì, e sfruttare appunto questa finestra che è tutta favorevole. Lasciamo stare il petrolio oggi in rialzo del 5%, ma è tutta favorevole. Mario Draghi continuerà a far comprare titoli di Stato anche dopo il 2016, per cui vedremo stasera cosa dirà la Federal Reserve, ma interessa relativamente poco noi in questo momento. Però iniziative di carattere fiscale, cioè di vantaggi